Eccoci con il cinema su Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza. Ricordo, perché siamo in piena emergenza per quanto riguarda la campagna di sostegno a questa radio, sull'home page del sito internet ondarossa.info c'è sostieni per le varie modalità per contribuire alla vita di questa emittente. Potete ascoltarci in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming, perché sul sito internet della radio, sempre sull'home page, c'è Ascolta la diretta. Per quanto riguarda Visionari, tutte le informazioni le trovate sul sito della radio, la voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari, e per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Eccoci con Giuseppe De Stefano, regista del documentario Fondaco. Intanto benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie per averci invitato, io sono qui anche con il mio collega e co-regista Luigi Palumbo. Salve. Benissimo, allora una telefonica a tre. Allora, passatevi voi la cornetta magari ad ogni domanda, cominciamo con il raccontare l'argomento di questo documentario a chi ci ascolta. Dunque, molto rapidamente, il Fondaco è una sorta di viaggio nel tempo, o meglio nel tempo che non passa, perché l'aspetto urbanistico, quello che è l'elemento del Fondaco, che appunto un elemento urbanistico delle città di mare, noi abbiamo cercato di esplorarlo per raccontarlo, ma poi il viaggio per raccontarlo è stato un viaggio che abbiamo compiuto noi stessi e che ci ha offerto degli spaccati di realtà della nostra stessa città che noi ignoravamo, e in qualche modo abbiamo deciso che era il caso di mostrarli. È un racconto di Napoli che non fa vedere il Vesuvio, non fa vedere la città del sole, ma racconta quelle che sono le realtà più nascoste negli angoli più bui, e sono realtà che nel tempo, secondo noi, non sono cambiate, perché sicuramente la tecnologia e il progresso imperano, ma poi gli ultimi della città sono ospitati sempre negli stessi luoghi, in qualche modo le loro storie sono simili e parallele. Senti, la causa scatenante di questo documentario qual è stata? Guarda, noi ci piace dire che in qualche modo è stata la disoccupazione, perché noi abbiamo trovato, noi siamo due giornalisti, e durante un'inchiesta sull'utilizzo dei beni ecclesiastici nella nostra città ci siamo trovati appunto a visitare negli angoli più remoti e abbiamo incontrato, non conoscendolo, questo elemento che era appunto il Fondaco. Quando ci siamo trovati senza lavoro, per non stare con le mani in mano, sostanzialmente abbiamo pensato che sarebbe stato interessante raccontarlo e abbiamo cominciato a fare una sorta di censimento. E come ho detto prima, facendo questa sorta di censimento ci siamo trovati davanti delle realtà e abbiamo deciso di raccontarle così. La stessa struttura del documentario non è stata pensata prima, o meglio, è stata pensata in una maniera diversa rispetto a quella in cui poi in effetti è stata realizzata. Questa diciamo è stata la sua genesi. Nella sua evoluzione e maturazione, la cosa interessante è stata la rete di quasi, diciamo, chiamiamola di solidarietà, ma che si è creata, perché noi l'abbiamo realizzato veramente con dei mezzi amatoriali, e però poi sono venuti incontro delle amicizie vecchie e nuove di entrambi per aiutarci a farne un prodotto degno di girare almeno qualche festival. Senti, allora, intanto volevo chiederti se la città degli ultimi è nascosta o parallela a quella che abbiamo sotto gli occhi. Diciamo, ciao, sono Luigi. Ciao Luigi. Diciamo che sono vere entrambe le affermazioni. La particolarità di Napoli, che speriamo venga insomma fuori dal nostro documentario, è che spesso, a differenza delle altre grandi città, delle altre grandi metropoli d'Italia, d'Europa, forse anche del mondo, le storie più controverse, le storie degli ultimi, le vite degli ultimi, le storie di miseria, le trovi se cerchi nel cuore della città, e sono parallele invece alla città che avanza o che dà l'impressione, l'illusione di avanzare verso il futuro. C'è un elemento che ricorre nel nostro documentario, che è quello della nuova metropolitana, del metro dell'arte, le immagini delle stazioni, delle bellissime stazioni hanno fatto il giro del mondo, e a due passi da quelle stazioni, che sono un po' l'avamposto del futuro a Napoli, abbiamo trovato e raccontato insomma, per quello che siamo riusciti a fare, storie di miseria, di sofferenza, di esclusione, di vita ai margini, ci sono sembrate almeno le stesse che potevi trovare in città alla fine dell'Ottocento, prima delle grandi manovre di risanamento urbanistico, del famoso sventramento della città. Sì, sì, sì. Ho una curiosità a questo punto, rispetto al prima parlavate di una rete solidale, ecco, come vive la città degli esclusi? La città degli esclusi sopravvive, non vive. E anche in questo il rapporto di Napoli con chi vive ai margini non è facile da raccontare, spesso presenta profili di ambiguità, spesso dietro quella che a prima vista può sembrare solidarietà o prossimità alle vicende umane, in realtà si nasconde anche tanta diffidenza. E ci siamo resi conto che in qualche caso l'integrazione è soltanto una finta integrazione. C'è una scena nel documentario in cui si vede bene il rapporto di in qualche misura di sottomissione che regola i rapporti, le relazioni a forcella tra le comunità dei migranti dell'Est Europa e la comunità di chi a forcella ci è nato e vissuto, era figlio di generazioni di forcellani. Quindi come tutta la città, e anche la relazione che c'è tra la città e gli ultimi, adesso che siano italiani o stranieri, non è è in chiaroscuro, diciamo. Sì, sì, sì, sì. Io il vostro documentario purtroppo non l'ho ancora visto, ne ero venuto a conoscenza perché era tra quelli in concorso al Via Emilia Doc Fest. Per saperne di più rispetto anche a un calendario di proiezioni o a possibilità distributive, eccetera, c'è un vostro luogo internet? Avete una pagina Facebook, qualcosa del genere? Sì, noi abbiamo una pagina su Facebook che si chiama proprio Fondaco un documentario, che è collegata ad una pagina di YouTube sulla quale noi abbiamo caricato dei trailer, degli estratti del lavoro. Il lavoro finale, in realtà finito, è stato visibile online durante il periodo del concorso, come dicevi tu, del Via Emilia Doc Fest. Poi ha partecipato a un altro concorso nel quale abbiamo avuto anche un piccolo riconoscimento, e adesso siamo in attesa di sapere se rientrerà in qualche categoria del Napoli Film Festival. Dopodiché, diciamo che questo era il percorso che noi ci eravamo dati un anno fa, perché la lavorazione è finita un anno fa. Dopo aver fatto questo giro di festival, per motivi di regolamento noi non l'abbiamo reso pubblico per tenerci aperte la varie possibilità, dopo questo giro di un anno noi lo pubblicheremo tramite appunto questi canali, quindi proiezioni, distribuzioni purtroppo non siamo stati in grado di metterne in piedi, perché siamo veramente fatti da soli da questo punto di vista. La nostra carriera è anche un'altra, perché come dicevo siamo giornalisti e abbiamo trovato anche altro impiego. Sostanzialmente speriamo di pubblicarlo nel breve, se però dovesse rientrare appunto nel giro del Napoli Film Festival, pubblicheremo in quella sede le proiezioni. Allora magari ci diamo appuntamento per quell'occasione. Sì, senz'altro. Un abbraccio a tutti e due, a Giuseppe e Luigi, a risentirci presto, in bocca al lupo. A presto, grazie Stefi. Ciao, ciao, ciao. Giuseppe De Stefano e Luigi Palumbo, registi del documentario Fondaco. Eccoci con Paolo Casalis, regista del documentario Barolo Boys, storia di una rivoluzione. Paolo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, benvenuto a voi, ciao, grazie. Allora, mi incuriosiva tanto questo titolo, raccontacelo un po', Paolo. Allora, Barolo Boys è un documentario che racconta l'epopea di un gruppo di piccoli produttori di vino delle Langhe. Io sono delle Langhe, al momento sono sullo Stelvio a fare un altro documentario, quindi forse sentirete dei rumori strani perché mi avete colto sul reato. Stiamo producendo un lavoro su un ciclista. Chiudo subito la parentesi. Barolo Boys è un film, è una piccola produzione che però sta fortunatamente sta andando molto bene, con numerose partecipazioni a festival internazionali, con una distribuzione anche che sta andando davvero bene, streaming, passaggio sulla Rai. È un film che a cui noi abbiamo lavorato per praticamente 2 anni, quindi per me è un piccolo film, per noi è un piccolo blockbuster, che davvero ci ha impegnato tantissimo. Il film vede protagonista alcuni dei principali produttori di Barolo delle Langhe. Le Langhe circa 30 anni fa aveva una sorta di rivoluzione, nel senso che si sono create, diciamo, due correnti, due scuole di pensiero, i tradizionalisti e i modernisti. Il nostro film racconta dei modernisti, cioè di quei produttori che con coraggio, con un po' anche di hanno provato a sperimentare le regole del gioco, hanno provato a fare un vino diverso, a fare un Barolo che fosse più pronto subito, diciamo, tra virgolette, più facile alla beva, così si dice tecnicamente, quindi con i tannini meno presenti, che hanno avuto per questo, anche per ragioni commerciali, un enorme successo soprattutto negli Stati Uniti e nei paesi anglosassoni. Noi abbiamo raccontato questa storia, abbiamo voluto raccontare anche le contraddizioni, i diverbi, gli screzi, perché poi quando c'è un successo si generano anche queste cose, e abbiamo costruito una storia che è il racconto di 30 anni di Langa. Le Langhe sono cambiate tantissimo in questi ultimi 30 anni e dal nostro punto di vista siamo sicuri che buona parte lo si debba anche proprio ai Barolo Boys. Ecco, proprio a proposito di quest'ultimo accenno, io qualche anno fa sono stato al un festival di cinema ad Alba e entrando nelle Langhe, l'impressione anche un po' che mi ha lasciato un po' interdetto è vedere delle terre quasi trasformate però in catena di montaggio. Ho visto veramente colline su colline a vite, insomma fa un po' impressione. Non so se sia frutto anche degli sviluppi di questi ultimi 30 anni oppure fa parte anche della tradizione e della produzione di vino locale. Ma guarda, hai colto uno dei punti di maggiore diatriba e dibattito all'interno delle Langhe, nel senso che qualche mese fa le Langhe hanno ricevuto riconoscimento dell'UNESCO proprio per il loro patrimonio vitivinicolo, quindi non tanto per la bellezza in sé del paesaggio, ma per il modo in cui l'uomo è riuscito a curare questo paesaggio, quindi l'integrazione tra uomo e paesaggio. Però è anche vero, come dici tu, che ci sono stati alcuni eccessi. La produzione di Barolo è raddoppiata nel giro di pochi anni, come giustamente dicevi tu, la superficie vitata è aumentata tantissimo e effettivamente da più parti, e da parte direi anche degli stessi Barolo Boys, si è fatto l'appello a frenare questa, diciamo, questo ingigantimento del fenomeno Barolo, perché è giusto che resti comunque un vino pregiato, giusto che resti, diciamo, il top della gamma di ogni produttore, e che non ci sia Barolo ovunque si gira, però diciamo che in generale il fenomeno è positivo, nel senso che è positivo il successo economico, anche una certa ricchezza si è fatta. Basti pensare che alla Morra si è passati da 10 produttori nel periodo in cui iniziavano i nostri fare Chiara Bottoli, non se non ho 150 produttori, quindi 250 produttori che fanno parola solo nel comune di La Morra, veramente tantissimo, quindi un territorio che è diventato molto vivo, pieno di ristoranti, di enoteche. Sicuramente ci sono aspetti, non vorrei usare la parola negativi, ma ci sono degli aspetti che fanno rimpiangere anche a me, che avendo anche solo 40 anni ho visto come erano le langhe prima, a volte rimpiango un po' la vecchia osteria dove ti sedevi, tutta pretesa che veniva data alla damigiana di vino, te lo versavi tu, ti portavano i piatti e le portate così alla casa senza dover chiedere. Quindi la vecchia langa è veramente cambiata, qualcosa è rimasto, qualcosa si è trasformato. Io direi che il bilancio è positivo, sicuramente questo riconoscimento dell'UNESCO ha anche messo un po' l'attenzione sul fatto di dover preservare il territorio, sì. Quindi andare a conservare il riconoscimento che è stato dato. Senti Paolo, che forma distributiva oppure un calendario di proiezioni pubbliche avrà questo documentario? Allora, il documentario ha una distribuzione in formato di streaming, oggi chi fa documentari ha a disposizione fortuna molto proprio a... Ti sento male comunque, vai e vieni con la comunicazione. Chiedo scusa. Probabilmente è la posizione. Mi risposto dove ero prima, sono a circa 2000 metri sullo Stelvio. Chiedo scusa. Dicevo che il documentario ha, spero che si senta meglio, ha a disposizione molte vie distributive. C'è lo streaming su iTunes, c'è Amazon, Netflix, noi non disegniamo queste forme di distribuzione un po' da blockbuster, anzi siamo fieri di poter essere con una piccola produzione sul catalogo di questi colossi, e poi abbiamo la nostra piccola distribuzione nelle sale, abbiamo già fatto tantissime serate e tante altre ne faremo. A Roma effettivamente forse non siamo mai stati a Roma e questa è una pecca gravissima che speriamo di colmare. Avete tantissime serate e festival anche. Avete un sito internet, una pagina Facebook, qualcosa di simile? C'è tutto e di più. C'è un sito e c'è ovviamente anche cercando Barolo, c'è anche la pagina Facebook del film, Twitter, Instagram e chi ne ha. Siamo molto social perché, ripeto, per chi fa documentari oggi forse l'unico modo di sopravvivere è questo, di darsi sul mercato il più possibile, solo la possibilità di rendersi visibili. Una piccola produzione come la nostra se la può giocare quasi ad armi pari con produzione più grossa, perché effettivamente questi mezzi, Facebook, internet, sono molto democratici, non sono inserzioni a pagamento o pagine pubblicitarie, ma sono giocati sulla partecipazione, condivisione. Sono grato a queste nuove possibilità. Paolo, un abbraccio, a risentirci alla prossima. Grazie, scusate i problemi, ringrazio. ciao. Grazie. Paolo Casalis, regista del documentario Barolo Boys, storia di una rivoluzione. Un fuori programma perché abbiamo in collegamento Oriana Maerini, autrice del libro La sostenibile leggerezza del cinema. Se non sbaglio, Oriana, intanto benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Mi parlavi di un libro intervista. Sì, benvenuta, grazie di benvenuta e un saluto a tutti gli ascoltatori. Sì, un libro intervista è un libro che non è, diciamo, recentissimo, anzi è stato fatto 10 anni fa, ma evergreen come Mario Monicelli, io credo, perché ho avuto il piacere per un intero mese, ogni sabato, di entrare nella casa di Mario in via Clementina, la casa prima che lui si spostasse poi dopo, diciamo, la separazione e la scelta di andare a vivere da solo. E quindi un mese, tutti i sabati, sono andata, ho avuto questo piacere immenso, questo privilegio di scambiare amabilmente con il maestro delle chiacchierate. che poi è raccolto in questo libro edito dalle Edizioni Scientifiche Italiane. È una cosa che devo dire subito, che lui si arrabbiava moltissimo quando lo chiamavo maestro. Sì, questo lo ricordo bene. Devo correggermi, devo trattenermi, perché insomma, come si può non chiamare maestro? Ma lui diceva: no, non chiamarmi maestro, io sono un artigiano del cinema, assolutamente non voglio. Io non voglio, diciamo, parlare del libro, perché è un libro intervista, e voglio invece, se tu mi permetti, sì, Federico, se mi dai questa opportunità e se condividi con me questa scelta, leggere le risposte, alcune risposte, quelle che trovo più significative, che mi ha gentilmente concesso e elargito Mario Monicelli. E io leggerei anche qualche risposta cattiva, perché come tu sai lui era molto arguto, molti lo definivano cinico, ma come io leggerò anche la sua, io gli ho fatto questa domanda: che cosa ne pensava del fatto che tutti lo considerassero cinico. Lui più che altro era un toscano dissacratore. Lui in questo libro intervista ha veramente dissacrato quasi tutti gli attori, i mostri sacri del nostro cinema, da Anna Magnani alla Loren, a Nino Manfredi, cioè non ne ha risparmiato nessuno, e non solo lui. Quindi io vorrei iniziare con un ricordo di vita, della sua infanzia, e quindi inizierò con questa prima risposta. Lei, Monicelli, è nato a Viareggio nel 1915. Qual è il primo ricordo legato alla sua città? Era un bambino piccolissimo, di 4-5 anni forse, e camminavo lungo il molo di Viareggio in compagnia di persone adulte, probabilmente i miei zii e mia madre. Il mare era molto grosso, agitato, le onde altissime provocavano un fragore infernale. Gli spruzzi arrivavano fino a noi. Io avevo molta paura, ma non volevo che mi prendessero per mano. Volevo stare solo. Camminavo al centro della banchina, con le braccia chiuse sul corpo, guardandomi di qua e di là per il timore che il mare mi travolgesse. I miei parenti mi chiamavano, avrebbero voluto rassicurarmi, tenermi stretto, però io non li ascoltavo, non mi fidavo di loro, mi fidavo più di me stesso, anche se avevo paura, una paura fortissima. Ecco, questo è il mio primo ricordo. Ho voluto iniziare il libro con questa frase, con questa risposta, perché secondo me qui è proprio, come dire, racchiusa tutta l'essenza della personalità di Mario Monicelli, cioè questa personalità fortissima che non aveva paura del giudizio altrui. Sei d'accordo? Sì, sì, completamente. Poi lui aveva un rapporto privilegiato con questa radio, era un ascoltatore attento e partecipava di tanto in tanto anche alla mia trasmissione. Io sostengo sempre come battitore libero. Parlavamo quando, spesso facciamo collegamenti quando lui tornava dai suoi dai festival all'estero, e ci raccontava un po' delle sue esperienze. Quindi sì, ritrovo tantissimo questo spirito nelle parole che hai letto. Certo, adesso inizio con le parti dissacranti. Le è capitato di avere qualche problema sul set? Di problemi sul set legati alle insicurezze di qualche attore? Gli attori sono tutti insicuri, se però trovano un regista sicuro di sé, loro gli si affidano e diventano docili come cagnolini. Gli attori in fondo sono come gli animali. Veramente lo trovo una definizione dell'attore che non so quanti non si arrabbierebbero ad ascoltarla, però detto da un regista come Monicelli, come si può non credergli? Che ne pensi, Federico? Sì, sì, sì, sì. Anche questo, rispetto al suo rapporto con gli attori, sì, qualcosa del genere lo sapevo. E senti, tra l'altro, questo libro ha con sé non solo l'intervista a Mario Monicelli, l'intervista a più puntate che hai fatto con Mario, ma anche con artisti che hanno lavorato con lui. Sì, allora c'è un appendice che si chiama Album dei ricordi, secondo me è preziosa. Perché? Perché molti di questi personaggi che ho intervistato ormai non ci sono più. Sono 19 interviste ad attori, produttori, sceneggiatori, montatori che hanno lavorato con lui, e c'è una bella intervista, per esempio, a Vittorio Gassman, c'è una bella intervista a Ruggero Mastroianni, che era il suo montatore preferito, Leo Benvenuti, col quale ha scritto le migliori sceneggiature, e secondo me vale la pena anche di leggere i ricordi affettuosi, simpatici che tutte queste persone che ho intervistato hanno avuto per Mario Monicelli. Adesso io continuerei. Sì, regalaci un'altra perla delle dichiarazioni nell'intervista di Mario, e poi diciamo anche. Sì, dimmi. Diciamo anche che il libro lo presenterai domani all'interno del Fuji Film Festival, domani venerdì 31 luglio. Sì, perché è un Fuji Film Festival, è un festival dedicato ai giovani, ci sono giovani in tutto il mondo, e io mi sono posta la domanda: ma i giovani conoscono Mario Monicelli, conoscono i film suoi, la sua cinematografia? Perché spesso mi viene questo dubbio, no? Che i giovani, i nostri grandi maestri non riconoscono veramente, quindi secondo me è un po' una forma, piccola modesta forma di come dire, di rispolverare la memoria, la nostra memoria cinematografica, quindi Oriana, io spero che serva a qualcosa. Io ti porto per un esempio proprio a questo proposito, perché oggi ti faccio questa telefonata per parlare di un libro che è il libro che hai realizzato attraverso le interviste a Mario, perché fra poco sentiremo Ottavia, una delle figlie di Mario, che è redattrice di questa radio, con me fa la trasmissione dedicata alle colonne sonore Tracce di Cinema. E stasera, proprio a Mario Monicelli, l'arena di Piazza San Cosimato, realizzata dai giovani e dalle giovani ex occupanti del Cinema America, dedicano la chiusura della loro arena, che per due mesi ha riempito la piazza di Trastevere, con un omaggio proprio, l'hanno voluto loro e hanno scelto anche il titolo, l'Armata Brancaleone. Questa sera quindi c'è questa proiezione all'aperto dedicata proprio a Mario Monicelli in chiusura di questa arena. Innanzitutto complimenti per l'arena, perché io più volte, più sere sono stata lì, e devo dire che è un'iniziativa eccezionale per la gente, ho visto sempre grandi masse di pubblico, è veramente un'arena stupenda, sia per la bellezza della piazza ma proprio per l'iniziativa di questo incontro cinematografico. E poi ti voglio dire che un po' tutte le città, io ho scoperto per esempio a Grosseto, hanno fatto un questionario tra i lettori di un giornale per scegliere quale film amano di più, in questo caso è stato Amici Miei, e hanno poi proiettato il film in un cinema, quindi devo dire che il centenario è abbastanza sentito. Comunque adesso ti disciacro, mi dispiace, una grande attrice romana che amiamo tutti, la Magnani, la meritava tanta devozione? Non lo so, sinceramente, era un po' sopravvalutato da tutti. Lei valeva più come donna che come attrice, in quanto recitava sempre solo lo stesso ruolo di Romana Verace, estroversa e burbera. Se le proponevano ruoli diversi, li rifiutava, sapeva che non sarebbe riuscita a interpretare altri che se stessa. Con me fece Risate di gioia nel 60 e non fece che litigare con il truccatore, perché doveva farla apparire bella e giovane, non si preoccupava d'altro. È stato per Nannarella. È un po'. Beh, poi dimmi. No, era simpatica questa. Se vuoi ti anche Manfredi. Vai, chiudiamo con Manfredi. Chiudiamo con Manfredi. No, poi ti vuoi chiedere velocissimamente il suo rapporto con la gente per strada. Tanto sono velocissima. Allora, di Manfredi diceva: Nino Manfredi, che ne pensa? Ha un'origine contadina, quella per cui vale il detto scarpe grosse e cervello fino, che viene fuori spesso con grande sincerità e simpatia. La rozzezza di Zappaterra, che da bravo attore ha imparato a dominare e a dosare, gli ha fornito le capacità di attore. Questo pensava di Manfredi. Adesso chiudo con questa cosa che secondo me chiude il cerchio di quanto ho detto del suo rapporto con la gente e di quanti lo conoscessero o meno, con questa domanda: capita che qualcuno la fermi per strada? E mi fermano spesso, soprattutto perché quando ho compiuto 80 anni hanno messo la mia faccia ovunque. Io mi sposto quasi sempre con i mezzi pubblici, autobus e metropolitane, e la cosa curiosa e che mi fermano senza sapere bene chi sia. Mi chiedono: ma lei chi è? È un regista? Io mi presento, sono Monicelli. Loro si dichiarano tutti i miei ammiratori, ma non citano mai un mio film. Mi ammirano per il fatto che mi vedono con loro in metropolitana. Sono colpiti dal fatto che un regista prenda la metropolitana. Ecco, questo era Mario Monicelli, con questo un abbraccio a tutti gli ascoltatori e in bocca al lupo per la vostra serata. Oriana, un abbraccio anche a te e ricordiamo l'appuntamento con la sostenibile leggerezza del cinema domani al Fiuggi Film Festival, venerdì 31 luglio. Un abbraccio e a presto. Grazie, Oriana. Sì. Ciao. Ciao. Oriana Maerini, autrice del libro intervista a Mario Monicelli. Cara Ottavia, ben ritrovata. Ben ritrovati, come stai? Bene. Lo sai che appena poco fa ho sentito Oriana Maerini, che è autrice di un libro intervista a Mario, La sostenibile leggerezza del cinema, che sarà presentato domani al Fiuggi Film Festival, e ho detto, siccome mi ha mandato una mail a scaletta già realizzata, ho detto vabbè, facciamolo comunque, così introduciamo la presentazione dell'arena di questa sera con l'Armata Brancaleone, con Ottavia, e facciamo un tutt'uno, giusto Ottavia? Sì, l'ho sentita Oriana che parlava del libro, di questa intervista che ha fatto, e ha letto qualche passo e mi sono sorriso perché è proprio lui quando diceva quelle cose così scellerate. Sì, stasera serata conclusiva, no? Finale dell'arena bellissima dei ragazzi del cinema America Occupato, con Brancaleone. Un classico di Monicelli, insomma, che speriamo porti fortuna a questi ragazzi che si sono dati un gran da fare, e speriamo che insomma trovino presto un posto dove continuare a fare queste belle iniziative. Tra l'altro, insieme a te a presentare la serata, chiaramente ci saranno loro, e ci sarà anche una figura istituzionale di quelle l'unica forse di quelle delle istituzioni che ha seguito questa esperienza, ma questo qui non ci interessa, e ci sarà Guido Lombardo della Titanus, che ha fornito proprio la copia che verrà proiettata stasera, e poi insomma ci sarai tu, Ottavia. È la cosa, diciamo, quella meno interessante, ma chi lo dice? No, sì, saremo tutti quanti insieme. Bello, io sono molto felice, sono andata spesso a vedere le proiezioni che hanno fatto lì in piazza, sono state tutte molto belle. Abbiamo visto anche insieme lo spazio è bellissimo, la piazza è stupenda, quindi sì. Insomma, poi Brancaleone è un film mitico, e quindi insomma fa sempre bene rivederlo, anche se uno l'ha visto 100 volte, magari anche sul grande schermo sotto le stelle è ancora più emozionante. Tra l'altro abbiamo visto insieme quell'omaggio a Claudio Caligari, che Amore Tossico, con una piazza stracolma, nel comunicare tra noi rispetto alla creazione di questo evento al quale abbiamo contribuito, ho ripescato spulciando in rete una foto che a me piace tantissimo, per quanto riguarda quel film. In una pausa di scena c'è Mario e Vittorio Gassman seduti sulle loro sedie, che si guardano in un campo all'aperto, una bella scena. Sì, ma ci sono delle fotografie, ci sono anche sul sito di Mario Monicelli, inedite, bellissime, trovate in giro, di quel set, che sono bellissime, veramente surreali. Beh, sai, è un film surreale, insomma, certo, dal linguaggio, certo. No? Sì. Ha proprio tutta la storia di questi personaggi così, veramente un'armata strampalata, insomma, come forse un'armata strampalata, un'armata di Brancaleone, anche quella dei ragazzi del cinema America e di tutte le realtà antagoniste che occupano i nostri territori e che lottano quotidianamente contro gli sgomberi, contro l'ossessione del potere, la paura di quelli che hanno potere, di loro, insomma, insomma siamo tutti un po' delle armate Brancaleone. Tra l'altro ricordo, oltre al motivetto che ha fatto storia, anche i costumi hanno quella, certo, quella surrealtà che prima descrivevi. È un film del 66 che ha fatto la storia del cinema italiano e anche iniziato un genere, perché è stato geniale. Beh, se pensi che è un film del 66 sono passati quanti anni? 55, 53, non so fare bene il calcolo, ma insomma siamo lì. Una cinquantina, quasi 50. È ancora un film attuale, cioè un film che non passerà, che puoi vedere anche fra 100 anni, capito? Non è un film che resterà sempre nella storia, secondo me. Tra l'altro, che non passerà mai. Tra l'altro, è senza tempo. Tra l'altro, io sono solito vedermi i film una volta sola, è veramente raro che me li veda una seconda volta. In questo caso me lo godrò all'aperto su grande schermo e me lo rivedo dopo anni e anni. Quindi per me portati la sedia. Sì. Allora, portatevi la sedia, perché se no state in piedi e non ve lo godete il film. Allora ricordiamo l'appuntamento, Ottavia, ci vediamo stasera a Piazza San Cosimato alle 9, no? Alle 9 sarà la proiezione evento di chiusura dell'arena di Piazza San Cosimato, realizzata dagli ex occupanti del cinema America, e al termine ci saranno anche i fuochi pirotecnici, ho saputo. Ma veramente? Sì. Roba forte. Ammazza. grandi, bene, non vedo l'ora. Ottavia, stasera, un abbraccio, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Ciao. Ottavia Monicelli per parlare della proiezione dedicata al padre Mario del film L'Armata Brancaleone, stasera all'arena di Piazza San Cosimato qui a Roma. Bene, abbiamo in linea Riccardo Palladino, regista del documentario Brasimone. Riccardo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie dell'invito e buonasera a tutti. Brasimone, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un documentario che ha come soggetto principale il lago di Brasimone, che è un lago nell'Appennino tosco-emiliano tra Bologna e Firenze. Un lago che ha vissuto diverse vicissitudini e che ho pensato che fosse interessante raccontare. Il lago, si pensi che è nato nel 1911, è un lago artificiale, e poi negli anni 60 è diventato un polo d'attrazione turistica, insomma una Rimini dell'Appennino. Dopodiché è stato avviato un progetto di centrale nucleare, o meglio più di uno, poi in realtà si sono susseguiti fino all'87, che insomma col referendum è tutto venuto meno. Senti, per quanto riguarda le origini, probabilmente a questioni di irrigazione o di della creazione di un bacino idrico è stato creato. Sì, è stato creato un bacino idrico in realtà per questioni idroelettriche. Idroelettriche. In modo abbastanza pionieristico nel 1911 è stata fatta una, almeno a mio avviso, una delle più belle dighe che sono state fatte sul territorio nazionale. Serviva per dare energia alla Porrettana, la ferrovia che tagliava l'Appennino. Senti, per quanto riguarda il nucleare, che rischi ha corso il lago? Ma che rischi ha corso? Sai, nel momento in cui il nucleare era un'ipotesi aperta, il lago era diciamo una cosa importante per sistemi di raffreddamento, e diciamo che insomma il nucleare ha portato anche il luogo è abbastanza meno, quindi anche distante dai centri abitati, dalle vie di comunicazione, per cui è stato anche un portatore di lavoro. Fondamentalmente c'erano migliaia di operai che andavano a lavorare alla centrale, insomma in costruzione in quell'epoca, quindi ci sono stati rischi di attivazione, tant'è che ci sono state anche diverse manifestazioni insomma negli anni 70-80, e allo stesso tempo è stato un anche un motore lavorativo, economico lavorativo. Diciamo che è un po' anche una storia, almeno a mio avviso, quello che mi ha affascinato è una storia emblematica dell'Italia, cioè nel senso che comunque molte questioni legate all'industrializzazione di quegli anni, adesso ci ritroviamo, insomma, che ci chiediamo: ma abbiamo fatto bene, abbiamo fatto male, è stato bene o è stato male? Quindi il classico discorso, poi quello che vediamo su Taranto, ma anche su altri luoghi, quindi lavoro salute, cosa mettiamo sulla bilancia e cosa pesa di più? Sì. Senti, per quanto riguarda il documentario in sé, come hai deciso di strutturarlo? Guarda, io non ero interessato a non ero interessato a fare una documentazione d'inchiesta. Quello che mi piaceva era rendere questo fascino che il luogo dà, questo fascino sia che a livello naturale, perché è uno dei posti veramente meravigliosi dell'Appennino, che io adoro tutto, ma lì ho trovato veramente un posto molto, molto contemplativo anche, ma allo stesso tempo è affascinante anche questa struttura della centrale nucleare, che è incastonata tra le montagne, è un punto di fuga, quindi mi piaceva questo aspetto visivo, che è quello che poi mi ha, diciamo, dato il là per partire con le ricerche. E facendo le ricerche ho visto che c'era molto materiale d'archivio, allora ho voluto giocare proprio con questo, con questa struttura che sia di fascinazione delle immagini, sia anche tra un gioco tra passato e presente. Quello che dico sempre è fondamentalmente che non volevo che le immagini d'archivio che ci sono fossero di un passato, no, distante, che non ci appartiene più, come molto spesso si fa, no? Cioè arriva il repertorio, ok, torniamo indietro negli anni. No, invece ho giocato in modo tale che il repertorio vivesse e entrasse nel presente, un po' per dare l'idea che il passato fosse pronto a ripetersi. Senti Riccardo, adesso cosa ne è del... è una riserva naturale? Allora, c'è un parco regionale dei laghi di Brasimone e Suviana, un altro lago un po' più grande che è lì vicino a Brasimone, e quindi ovviamente ci si trovano cervi e tutta la fauna della montagna lì, e quindi è diventato negli anni 90 un parco regionale. Allo stesso tempo l'Enea tiene ovviamente un centro ricerche proprio sulle sponde del lago. Senti, per quanto riguarda la fruizione, intanto ti chiedo se hai una pagina Facebook, un sito internet per un calendario di proiezioni o per notizie sul passaggi televisivi, distribuzioni in sala. Sì, guarda, allora c'è sia una pagina Facebook, che è facebook.com/brasimone, c'è anche un sito, brasimonefilm.it, dove un po' viene aggiornato tutti i festival che sta facendo. Ormai il documentario ha avuto la sua prima anteprima mondiale a Vision d'Urel in Svizzera ad aprile 2014, e da allora sono iniziate una serie di proiezioni anche un po' inaspettate, perché comunque è andato anche all'estero, è andato due volte in due bei festival in Corea del Sud, in Canada, andrà in Germania a settembre, insomma, e più, vabbè, molti festival italiani, tra cui anche, insomma, gli ultimi, Bellaria, che è finito pochi giorni fa. Bene Riccardo, io ti ringrazio, ci sentiamo per le novità future. Va bene, volentieri, anzi grazie a te dell'invito, è stato un piacere. A presto, ciao Riccardo. Ciao, grazie, ciao. Riccardo Palladino, regista del documentario Brasimone. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15. E in linea abbiamo Gianni De Blasi, regista del documentario Altamente, al quale abbiamo dedicato la copertina di questa settimana perché era una foto veramente suggestiva. Gianni, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, ciao, buongiorno a tutti, ciao. Allora, Altamente, cos'è Altamente? Altamente è un documentario su un grande evento, l'evento invernale più importante in Puglia, che è la Pocara di Novoli. Per chi, insomma, non ne avesse mai sentito parlare, viene costruita in nome di Sant'Antonio Abate una catasta di tralci di vite alta, l'anno in cui ho realizzato il documentario, fino a 25 metri. Ogni anno viene invitato un designer internazionale a progettarla. L'anno in cui c'ero io è stato Hidetoshi Nagasawa, ma quest'anno, nell'edizione 2015, c'è stato Kuhn Ellis, insomma ogni anno c'è un artista internazionale a fare la progettazione di questa foca. All'Atere si svolgono tantissimi eventi musicali e gastronomici, vengono invitati gruppi, Bombino, Di Naigo, Alfa Blondi. È un evento che mischia un po' sacro e profano e cultura anche pagana mista a quella religiosa, è un qualcosa che va sicuramente respirato se ne avete la possibilità. Senti, a partire da questi nomi internazionali legati alla creazione di questa opera e che poi alla quale verrà poi dato fuoco, testimonia il fatto che negli anni è un evento sempre più prestigioso con sempre più pubblico. Beh sì, io adesso guarda i numeri del pubblico esatti non li conosco. Sta di fatto che è un evento sicuramente paragonabile un po' a quello più conosciuto che è la Notte della Taranta, diciamo, ecco, sì. Viene definita anche la Notte della Taranta invernale, con la differenza che durante la Focera di Novoli non è soltanto una serie di concerti con degli ospiti, ma parte appunto da una cerimonia, dall'organizzazione di una festa, che poi è quello di cui parla il film. È proprio come un intero paese si muove per realizzare una festa, ognuno spinto dalle proprie motivazioni, chi spinto da motivazioni appunto religiose, chi da motivazioni che sono quelle di superare se stessi, quindi salire sempre più in alto senza protezioni a infilare fascine di vite, chi fa la festa perché è assetato insomma di cultura e di bellezze, mm-hmm. Quindi il direttore artistico che si occupa dei concerti, ognuno ha delle motivazioni alte, da qui anche un po' il titolo per realizzare diciamo questa festa. Questo evento non richiama solo turisti un po' da tutta Italia, da tutto il mondo, ma credo che sia anche sentito a livello regionale da tutta la popolazione pugliese. Sì, sono numerosissimi diciamo gli ospiti che vengono da tutto il territorio pugliese. Spesso anche si fermano la Puglia è lunga, quindi non sempre è facile venire magari in Salento, in Novoli, per chi magari è di Bari o di Foggia e poi ritornare indietro, quindi spesso addirittura decidono se possono di farsi 2 o 3 giorni in Salento per questo evento. Però ecco, sui numeri di queste cose vi rimando poi a chi organizza il Focera Festival e tutti gli eventi all'Atere. Io posso parlarvi più dello specifico del mio punto di vista sul film. Ecco, proprio a proposito del tuo punto di vista, la curiosità è anche legata al rapporto dei giovani con questo evento. Sì, i giovani anche loro hanno motivazioni varie per partecipare attivamente diciamo alla realizzazione della festa. Ci sono, come si vede nel film, operai giovani che lavorano volontariamente nelle campagne per raccogliere le fascine di vite e spesso lasciano anche la loro quota, una quota del loro diciamo del loro salario al santo, quindi molti lo fanno quasi gratuitamente insomma. E i giovani partecipano alla festa perché assistono anche ai concerti, quindi da spettatori, non da organizzatori dell'evento. Vengono, come ti ricordavi tu, da molte parti di Puglia, ma spesso anche d'Italia, perché ci sono gruppi per cui si comincia a nutrire tanto interesse. L'anno che c'ero io c'era, ripeto, Bombino, che stava emergendo in quegli anni, adesso sappiamo ha realizzato dischi con Jovanotti. C'era un'attenzione alla musica africana, quindi c'erano i Tinari, quindi è chiaro che fa anche piacere che giovani, anche molto giovani, parlo dei teenager, 17-18 anni, possano essere avvicinati a un genere di musica che non è il solito hip hop che sta andando adesso su MTV, con tutto il rispetto per l'hip hop ovviamente, ma ci sono altre forme di musica, altre forme di cultura, e queste vengono proposte durante la Focera di Novoli e molti giovanissimi rispondono bene. Oh Gianni, dal punto di vista cinematografico, come hai costruito il documentario? Ma a me piace raccontare le storie cioè mostrando i fatti, non facendoli raccontare. Quindi di base noi abbiamo 3 livelli. Il punto di vista esterno, alto, che è quello di Kusturica e Nagasawa, perché nel film c'è la partecipazione di Emir Kusturica e di Hidetoshi Nagasawa, che quell'anno ha progettato la Pokhara. E poi l'altro livello è quello del paese che la costruisce, sì, attivamente. Si chiama il Comitato Festa, fatto di operai, contadini, anche gente fa altri lavori, che quei giorni prende le ferie per lavorare all'organizzazione della festa. E il terzo polo, diciamo, che sono andato a raccontare, è quello religioso, proprio dei fedeli, tutti schierati attorno al santo e, diciamo, al prete del paese. Ovviamente il mio punto di vista è totalmente laico, e non ho voluto raccontare il film, dicevo, facendo raccontare ai personaggi le cose, ma mostrandole per come sono, quindi attraverso dei veri e propri dialoghi, certamente indirizzando alcune situazioni, ma non usando interviste, ecco, teste parlanti, okay, se non per le voci alte, per gli sguardi esterni, che ripeto sono quelle di Kusturica e Nagasawa, che fanno un commento esterno e alto a tutto il movimento che poi invece ho cercato di creare attraverso la costruzione di scene vere e proprie e di dialoghi tra i protagonisti, diciamo, della festa. Mm-hmm. Senti Gianni, per saperne di più sul web, c'è una tua pagina Facebook, un sito internet o cosa? Allora, per Altamente c'è la pagina Facebook Altamente, ci si accede anche da me, insomma, io sono Gianni De Blasi su Facebook, la pagina di Altamente su Facebook, non c'è il sito internet, c'è il mio sito giannideblasi.com, quindi si può rimanere, c'è il trailer online su YouTube, comunque per chi andrà a visitare la pagina Altamente vedrà caricato il trailer e poi tutte le recensioni e le interviste a corredo. Adesso l'ultima proiezione è stata qui in casa, diciamo, al Cinema del Reale, che è una manifestazione che penso che sia conosciuta a livello nazionale. Sì, sì, abbiamo sentito Paolo per lanciare proprio come ogni anno da questi microfoni, insomma, prima che cominci la lanciamo sempre con lui questa festa. Ah, sì, è una manifestazione bellissima che Paolo riesce a portare avanti da tantissimi anni. Io sono stato veramente onorato, perché poi io sono un regista di pubblicità e videoclip, adesso sto in pausa ma devo rientrare a girare proprio una pubblicità, e quindi quando poi faccio dei lavori del genere mi ha portato via un anno alla fine, tra una cosa e l'altra, e vengono riconosciuti come dei prodotti validi all'interno di queste rassegne, di queste manifestazioni, per me ovviamente è un onore, un piacere immenso, e spero che continueremo a vederlo in giro per l'Italia. Bene. E anche fuori. Gianni, io t'abbraccio, ci sentiamo per la prossima. Dai, io ringrazio voi per l'attenzione che mi dedicate e vi faccio in bocca al lupo per la trasmissione. Grazie, a presto. Ciao Gianni. Ciao. Gianni De Blasi, regista del documentario Altamente. Mimmo Mongelli, regista del documentario Franco, un uomo in piedi e la signora vestita di nebbia. Mimmo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie per questa ospitalità. Senti, un titolo curioso, già questo cattura l'attenzione, come mai? Raccontaci un po'. Questo è la citazione di una frase di Esiodo, nella quale frase è proprio la giustizia che viene identificata come la signora vestita di nebbia e che viene trascinata in catene dagli uomini come estremo oltraggio. Ed è quello che noi in realtà raccontiamo in questo nostro documentario, dove giustizia non è stata fatta, anche per questo la chiamiamo una storia italiana. Giustizia non è stata fatta nei confronti di quest'uomo integerrimo che aveva l'unica colpa di essere un uomo onesto e di voler fare il suo dovere, Franco Marcone. Senti, chi era Franco? Raccontaci un po'. Allora, Franco Marcone era il direttore dell'ufficio del registro di Foggia, una persona amata da tanti, proprio per la sua rettitudine e anche perché non era il tipico feroce direttore dell'ufficio del registro, che però poi si è imbattuto in alcune pratiche, in alcune vicende che gli consentiva di andare a pestare i piedi a una serie di figure dei potentati locali foggiani, e questo probabilmente l'ha portato alla morte, ucciso con due proiettili sul portone di casa esattamente 20 anni fa. Senti, che ne è stato di quella vicenda? Quella vicenda ha avuto fasi alterne, è stata aperta e chiusa ben due volte, ancora c'è chi probabilmente sta indagando. Noi stessi con questo nostro documentario abbiamo voluto, che poi è una docufiction perché c'è anche una parte fiction all'interno del documentario, con questo lavoro abbiamo voluto dare delle indicazioni che secondo noi sono utili per la riapertura del caso e per arrivare finalmente a capire chi sono i mandanti. Senti, a questo punto ti chiedo come hai deciso di realizzarlo, che tipo di difficoltà hai incontrato, che tipo di appoggi invece hai avuto modo di ottenere? Allora, ho pensato a questo documentario perché seppi della morte di Franco da alcuni suoi parenti con cui svolgevo il mio lavoro, sempre di regista, e particolarmente provati, cioè dalla sorella scrittrice Maria Marcone. E quando seppi di questa cosa decisi che era una storia veramente strana, era molto intricata, con difficili soluzioni, c'erano molte cose, molti tasselli che non coincidevano e che mi inducevano ad andare a cercare ancora. E finalmente nel 2008 cominciai a parlare con la famiglia, con gli avvocati, e poi dopo un periodo di indagine, finalmente coinvolgendo la Rio Film di Roberto Gambacorta, oltre alla mia Seven Art International Agency, decidemmo di dare inizio alle riprese. Chiamammo Ivan Franek e Antonella Maddalena e facemmo una parte fiction che poi abbiamo inserito nella documentazione generale. La città ha risposto in parte bene, in parte malissimo. Le persone semplici, le persone comuni ci hanno sostenuto e ci hanno anche, come dire, sono stati incoraggianti nel vero senso della parola. Invece, per quanto riguarda l'aspetto istituzionale, a parte il comune di Foggia e poco altro, una fondazione bancaria che ci ha sostenuti ma minimamente, tutto il resto è stato completamente assente. I potentati e i notabili locali si sono rifiutati di concederci interviste, pur essendo, o forse perché, anche loro in qualche modo nella vicenda erano coinvolti in qualche modo, senza grandi responsabilità magari, o forse qualcuno anche con grandi responsabilità, però non ci hanno dato risposte di partecipazione. E noi infatti alla fine del documentario citiamo tutti quelli che non hanno voluto dare un contributo. Senti, invece rispetto alla documentazione a cui hai avuto accesso e anche alle cose che hai sentito facendo questa ricerca, hai scoperto qualcosa che ignoravi? Sì, ho scoperto delle cose interessantissime, tipo ad esempio che alla fine, ecco perché questo lavoro che è un po' un'indagine, un vero e proprio giallo, che però è senza conclusione, però noi diamo delle tracce proprio perché abbiamo scoperto nel corso della nostra inchiesta, della nostra indagine, che addirittura c'era un elemento di un biglietto anonimo che fu recapitato e che è stato assolutamente ignorato, nel quale si danno delle indicazioni precise di chi avrebbe potuto essere il mandante o i mandanti, no? Sì. I colletti bianchi, chiamiamoli così, no? Mandanti di questo omicidio. Ecco, questa è una cosa che abbiamo scoperto e che è stata veramente una novità, ma soprattutto la novità è stata che cioè la notizia vera è che non è stato per niente preso in considerazione tutto ciò, e sono ormai 10 e più anni che il caso per la seconda volta è stato chiuso e ancora è lì che galleggia. Senti Mimmo, per saperne di più su questo tuo lavoro, ma anche sul caso più in generale, c'è un luogo internet da visitare? Sì, dunque si può andare su www.performer.com, sì. È un performer con due iniziali, sì. .com, e si può andare a vedere il documentario. Quindi è consultabile proprio online? È online su www.performer.com con due performer.com. Altrimenti c'è la pagina Film and Film, perché recentemente l'abbiamo proiettato, e quindi anche lì ci sono delle notizie di Facebook, la pagina Facebook volevo dire. Bene. Ma per vedere il film anche nella sua integrità si può andare su quel portale, che è un portale di servizi per il cinema, tra cui anche la distribuzione e quindi la diffusione di materiale video. Mimmo, io ti ringrazio, un abbraccio e ci sentiamo per le prossime novità. Grazie Federico, grazie della chiacchierata e dell'occasione. Saluto tutti quanti gli ascoltatori. Grazie. Ciao, a presto Mimmo. Ciao, grazie, ciao. Mimmo Mongelli, regista del documentario, della docu-fiction Franco, Un uomo in piedi e la signora vestita di nebbia. Nicola Bogo, co-regista del documentario Mujeres. Nicola, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille, buongiorno a tutti. Un titolo abbastanza indicativo, di cosa si parla? Si parla di donne, appunto. Due donne in particolare sono nella storia della loro quotidianità. Le abbiamo incontrate in Mozambico l'anno scorso durante un soggiorno per realizzare un video di rendicontazione di un progetto di cooperazione internazionale, e tra tutte le persone con cui siamo venuti in contatto, queste due donne qua ci hanno colpito per la forza d'animo, per la loro semplicità innanzitutto, per la loro forza d'animo che dimostrano tutti i giorni. Senti, che tipo di vita conducono? Il Mozambico è un paese molto povero, forse uno dei più poveri al mondo, e la loro esistenza praticamente è incentrata sul lavoro. Chiaramente vivono in una situazione che le discrimina abbastanza. La società mozambicana all'oggi è molto maschilista. Diciamo che il peso della società è proprio sul carico, sulle spalle delle donne, e queste due donne qua riassumono in loro proprio tutta questa difficoltà, ma anche questa forza di reazione. Senti, come avete deciso di realizzare il documentario? Come lo avete poi sviluppato? Niente, ti dicevo, ci siamo trovati appunto in Mozambico per fare una rendicontazione video, un reportage su un progetto di cooperazione internazionale. Queste due donne, Janetta ed Elena si chiamano, che abbiamo poi seguito nella loro quotidianità, facevano parte in qualche maniera delle azioni della cooperazione internazionale. Sì. E durante le riprese per il video abbiamo proprio capito che potevano essere persone interessanti per fare una specie di fotografia della realtà del loro quotidiano, una fotografia intima se vogliamo. Quindi dimmi. Più che interviste, quindi proprio le avete seguite passo passo nella loro giornata? Sì, anche proprio per cercare di capire e di provare a far capire la difficoltà che loro affrontano quotidianamente e che non considerano più neanche tanto una difficoltà. Quindi sostanzialmente le riprese le abbiamo fatte all'interno delle loro case, che sono delle capanne ancora di fango, di lamiera, piccolissime, anguste, quindi la difficoltà delle riprese, secondo me, che appare anche nel film, un pochettino racconta questo. Abbiamo fatto i 5 chilometri a piedi che fanno tutte le mattine per raggiungere il campo dove coltivano il riso e il miglio, e quindi in sostanza abbiamo vissuto noi la loro vita e speriamo in qualche maniera di averla raccontata anche allo spettatore. Nicola, esistono delle realtà dal basso che si stanno interessando alla condizione della donna nella società mozambicana? Sì, proprio scoprendo questi progetti di cooperazione internazionale, in particolare questo che si chiamava, penso sia concluso, Crescere per contare, abbiamo proprio visto come la cooperazione può aiutare a superare queste difficoltà proprio partendo dal basso, quindi partendo dalle persone, facendo informazione, raccontando in altra maniera quello che loro vivono tutti i giorni e che magari non sono abituati a guardare da un altro punto di vista, e quindi si stanno creando proprio dei movimenti associazionistici ma anche informali che danno una mano. Le stesse protagoniste, diciamo, ne parlano, nel senso è molto difficile, però noi stiamo lavorando per questo e andiamo avanti, quindi sono anche fiduciosa. Ecco, proprio a questo proposito, in relazione alle riprese che avete effettuato, come vi siete poi relazionati con loro? Com'è stato il dialogo e a cosa ha portato? Ma guarda, allora, diciamo che la partenza è stata proprio del tipo che lì c'era una cooperatrice internazionale che quindi conosceva già queste persone e un pochettino ha fatto da rompighiaccio e da introduzione, diciamo, presentazione. Dopodiché noi lavoriamo in due, siamo io e Lita Bucchi, non siamo altri, quindi la nostra troupe è veramente piccola e quindi non siamo mai invadenti, cerchiamo di nascondere la videocamera, nel senso deve uscire dalla loro visione la videocamera in modo che non si sentano oppresse o comunque schiacciate dal peso, e quindi non ci sono stati problemi. Diciamo che abbiamo avuto fortuna perché loro erano molto disponibili e si meravigliavano, per dire, del fatto che noi fossimo interessati alla loro vita, che per loro è una piccola cosa, se vogliamo banale, e quindi questo ci ha fatto in modo che potessimo entrare in punta di piedi nella loro vita senza disturbarle, e ci ha permesso questa confidenza. E per loro ha rappresentato una sorta di piccolo strumento questo documentario? Allora, guarda, penso proprio di sì, nel senso che anche poi la distribuzione che ha avuto questo documentario, oltre che in Mozambico, ha partecipato a parecchi festival, con nostra grande sorpresa e soddisfazione, che avevano proprio come tematica sia le donne ma anche i diritti umani, eccetera. E penso che in qualche maniera possa aver aiutato in piccolissima parte anche questo tipo di lavoro qui. Senti, per saperne di più online, cosa si può fare? C'è una pagina? Diciamo che il film in sé non ha una pagina dedicata, però si possono trovare informazioni sia sul nostro canale Vimeo, che è vimeo.com/ipico. Oppure riguardo al progetto più ampio di cooperazione e anche all'altro video, diciamo, di rendicontazione, di reportage, sui siti delle associazioni ONG che ci hanno permesso di realizzare questo lavoro ci sono tutte le informazioni dettagliate. Le associazioni, insomma, le ONG che ci hanno prodotto diciamo questo lavoro sono state Iscos Emilia Romagna, quindi sul sito ci sono informazioni, Mani Tese, sempre dell'Emilia Romagna, anche lì sono informazioni, Arci Cultura e Sviluppo è la terza, e in fondo Nexus Emilia Romagna. Insomma, sui siti di queste quattro organizzazioni ci sono molte informazioni dettagliate, e sulla nostra pagina Vimeo ci sono tutte quelle che riguardano invece più dettagliatamente il documentario. Bene, Nicola, io ti ringrazio, un abbraccio e a presto. Grazie mille, grazie tante e a presto. Ciao ciao. Ciao. Nicola Bogo, co-regista del documentario Mujeres. Nicola Roda, che è co-regista del documentario Piccole Scelte. Anche questo era tra i documentari selezionati del Via Emilia Doc Fest. Ci stiamo inseguendo da un paio di settimane e finalmente ce l'abbiamo fatta. Nicola, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buongiorno a tutti, grazie a te. Una storia che mi interessava abbastanza e per cui ho preso contatto. Raccontiamola un po' a chi ci ascolta. Cos'è Piccole Scelte? Dunque, Piccole Scelte è la storia di una ragazza che, diciamo, per inseguire il suo sogno, per continuare a lavorare con la sua passione, che è quella dei cavalli, sceglie di rinunciare a molte delle comodità offerte dalla nostra società moderna e sviluppata, quindi sceglie di vivere in una roulotte, di tagliare tante spese, di non avere una macchina, di spostarsi con una carrozza trainata dai cavalli, e quindi di farsi bastare il suo stipendio, che nel maneggio, essendo che si lavora comunque solo di mattina, è uno stipendio molto basso, che va dai 400 ai 500 euro al mese. Però diciamo, con queste scelte, da qui il titolo, riesce comunque a vivere facendo quello che le piace, e fondamentalmente a avere tanto tempo libero, magari avere meno, ma vivere di più. E questo era un po' il senso del film, e anche nell'incontro con chi il cavallo lo usa come hobby il sabato e la domenica, che sono molto spesso gente benestante che viene verso Piacenza da Milano, comunque dalla città, e quindi anche questo contrasto tra lei e chi il cavallo invece lo vede più come un non come una scelta di vita, ma proprio come una passione momentanea, ecco, come un hobby. Questo era il senso. Nicola, come sei venuto a conoscenza, come siete venuti a conoscenza di questa storia? Ah, questa storia in realtà è molto vicina a casa, nel senso che è una ragazza con cui io sono cresciuto da bambino, nel senso che siamo dello stesso paese, che è Rivergaro, nella Val Trebbia, una delle valli più belle del nord Italia, attraversata da questo fiume bellissimo che si vede anche nel film. Quindi diciamo è stato un rincontro, nel senso che è tornato dall'università dopo 10 anni che non ci vedevamo, ognuno aveva preso la sua strada, lei aveva scelto di rimanere a differenza di me, quindi tornato da Roma diciamo dopo 4 anni, l'ho rincontrata e l'ho riconosciuta in pratica, diciamo, e mi è sembrato subito, per me è un po' come un cerchio che si chiudeva, nel senso che la mia tesi di laurea parlava proprio di un ritorno alla natura, di una critica alla società consumista e comunque sviluppata, così come abbiamo oggi. Quindi lei mi è sembrata proprio come un punto di arrivo per me, e quindi ho scelto di raccontare la sua storia anche proprio per tutto il percorso che avevo fatto in precedenza, quindi l'incontro con una metropoli come Roma e la messa in discussione di alcuni valori che per tante persone sono normali, in certi momenti appaiono paradossali quando si ritrova una vita così semplice, così felice, lontano dal lavoro, dalla mondanità alla quale io ero abituato. Quindi una vita molto semplice che mi trasmetteva una felicità vera e spontanea, non costruita come tanti cercano di costruirsela oggi. Quindi un esperimento del genere è possibile e è anche con successo, nel senso regala anche felicità. Quello che mi piaceva di lei è che lei non è la comunità, l'ecovillaggio, l'eremita. Lei è una ragazza che ha fatto delle scelte, che vive tranquillamente in società, ha un bellissimo rapporto, un'altra cosa che un po' si percepisce dal film, poi purtroppo essendo un cortometraggio non approfondisce come dovrebbe, però anche il rapporto che ha con tutti gli anziani del paese, perché comunque il fatto che lei rimanga legata a certe tradizioni, anche a certi modi di spostarsi e di vivere, che gli anziani un po' quando la vedono sentono ancora loro, si sentono un po' giovani, quindi tutti le parlano e lei è una molto molto socievole con tutti e ha un bellissimo rapporto con tutte le persone del paese, nonostante il suo aspetto che, come si vede nel film, insomma, comunque con i dread, con piercing dappertutto, abbastanza estrema anche, ecco, come immagine, però eppure c'è un bel rapporto di serenità e di simpatia con tutti i vecchietti del paese, e quindi c'erano degli sketch veramente molto belli che poi purtroppo non sono entrati nel film. Senti, un'altra curiosità rispetto agli aspetti della modernità, e c'è un rifiuto totale, c'è una qualche forma di interazione, e come vive questa condizione? Nella fase di scrittura del film, quando ne parlavo con i miei collaboratori o con chi comunque ha contribuito allo sviluppo di questo progetto, parlavo di una sua sorta di rivoluzione non consapevole. Sì. Nel senso che la sua non è una scelta di rifiuto della modernità, lo era nella mia visione. Sì. se lo è per il percorso che ho fatto io. La sua è semplicemente una scelta che è dettata dalla passione, dal cuore. Quindi poi lei, per esempio, magari la sera si guarda una soap opera su Rete4, perché nella roulotte c'è una TV, quindi non è il suo non è un rifiuto per seguire dettami di non so quale percorso filosofico o comunque ideologico. Beh, proprio semplicemente mi piace fare così, faccio così. Sì, e questa sì, mi sembrava la cosa più bella di della storia, nel senso, penso che poi si percepisca un po'. Quindi lei non è guidata da nessun tipo di né di rifiuto verso la modernità né di odio verso qualcuno, ma dal semplice amore e passione per qualcosa. Sì, sì. E poi penso sia quello che poi molti di noi, me compreso, spesso dimentichiamo e ci lasciamo trascinare in certe dinamiche che magari non ci appartengono e perdiamo un po' il nord, ecco, alcune volte. Lei invece è sicura di quello che fa, ma è sicura perché è il cuore che glielo dice, non è nessun'altra cosa. Mm-hmm. Senti, per realizzare il documentario, come hai lavorato con lei? Allora, lei sono stato avvantaggiato dal fatto che comunque è una persona che avevo molto disponibile, che avevo rincontrato, siamo sempre stati molto amici. Come penso si capisca dal film, c'è anche stato qualcosa di più, quindi era un rapporto veramente, è stato un rapporto di amore proprio in tutti i sensi. Quindi diciamo, è stato facile e difficile allo stesso tempo, perché comunque sono state una settimana di riprese, quindi anche un periodo molto breve dovuto a necessità, diciamo, organizzative, logistiche, produttive. Però è stato molto, anche molto facile lavorare con lei, perché io prima di iniziare ho condiviso con lei il progetto, ho detto che cosa volevo raccontare, lei insomma, diciamo, ha dato la sua disponibilità e ha partecipato attivamente alla realizzazione del film, quindi con questo intendo dire che era partecipe, capiva che cosa stava succedendo e aiutava le situazioni, cioè per fare documentario così un po', diciamo, anche seguendo le ultime tendenze che vengono soprattutto dall'Italia, e intendo Rosi, Minervini, questa corrente che è un tentativo di scavalcare la linea che separa fiction e documentario, nel senso che uno poi attraversa sempre l'altro. Questo è stato quello che ho cercato di fare un po' anch'io, nel senso che è un documentario, ma vuole essere un documentario, ma si lavora per creare terreno fertile per far sì che le cose poi accadano. Quindi questo penso sia un po', nel senso, è un modo di fare cinema che a me piace molto e sì, al quale io rimango legato. Mm-hmm. Lei mi ha aiutato molto in questo, nel senso, capiva benissimo che cosa mi serviva, un po' lo faceva capitare, un po' tante volte si dimenticava di me perché sapeva che io avevo bisogno di questo. E penso che alla fine, essendo comunque il mio primo lavoro, adesso ormai risale a 4 anni fa, io sono stato molto contento, appunto, che è stato anche premiato al Via Emilia Doc Festival, come ha preso il premio miglior documentario dell'Emilia Romagna, quindi per me è stata una soddisfazione. Penso che per essere il primo lavoro sia un esperimento riuscito, ecco. Sì, sì, sì. Tutto qua. Nicola... comunque ha aiutato il film sicuramente. Sì, sì, sì. Nicola, un'altra curiosità, le persone che vengono a contatto con lei, che ha fatto una scelta molto diversa rispetto a quello che pensiamo rispetto al quotidiano di chi, per esempio, come noi vive la metropoli, ecco, che tipo di scambio c'è? Che tipo di rapporto si crea? Ma guarda, ti dico, prima di realizzare questo film con lei e altri amici che mi erano venuti a trovare da Roma, siamo partiti a piedi. Da lì poi è nata forse veramente l'idea di fare questo lavoro. Siamo partiti a piedi con un cavallo, quindi eravamo qua 5 persone, a volte qualcuno si univa, poi qualcuno se ne andava. Comunque, diciamo, è stata una camminata di 21 giorni a piedi per la valle, accompagnati da questo cavallo che con un basto militare di quelli vecchi, diciamo, portava i pesi più scomodi per noi, perché era un cammino comunque spesso in salita, spesso difficile, anche con dei passaggi difficili. È stato un po' un viaggio che ci ha portato molto in contatto con tutte le persone che continuano a vivere nelle campagne, intendo le campagne quelle un po' più irraggiungibili, sì, nel senso che da noi comunque sono colline fino a un certo punto, nel senso che raggiungono anche 1600-1700 metri. Quindi attraversavamo questi paesini abbandonati dove ormai rimangono solo anziani e tante case che cadono a pezzi, e c'era uno scambio bello perché loro si ricordavano, vedendoci, di quando erano giovani, ci spiegavano di come andavano al mercato, che impiegavano 4 ore di camminata per andare a fare il mercato una volta a settimana, tante altre cose di come lavoravano la terra con gli animali, insomma risvegliavamo un po', come dicevo prima, in loro questo ricordo di un passato che evidentemente loro hanno amato tanto, che forse un po' dimenticano davanti alla televisione, e che quando gli ritorna arriva forte evidentemente anche a loro, perché hanno veramente momenti molto emozionanti anche per me. E insomma poi ti viene da chiederti tante cose anche quando vedi le città così affollate, questi posti veramente bellissimi che cadono a pezzi, a me sembra che qualcosa non vada, ecco. Senti, per ultimo, per saperne di più in rete, cosa che spazi ci sono? Tu intendi progetti futuri? No, su questo documentario, il tuo Piccole Scelte, per avere informazioni su magari un calendario di proiezione. C'è il mio canale Vimeo, che è Nicola Rosa, sì, dove c'è qualche informazione in più. Dopodiché, ripeto, è stato il mio primissimo film, cortometraggio, quindi diciamo non ho avuto alle spalle né chissà quale produzione, né chissà quale impianto, quindi rimane un lavoretto che secondo me va guardato, e poi ognuno dice qualcosa. Non è che c'è tanto in più oltre a quello che ho detto io, oltre a quello che c'è scritto, diciamo, nella descrizione. È una storia da guardare, e ognuno prenda, e ognuno secondo me arriva a qualcosa, che è una scelta comunque talmente diversa, e fatta da secondo me una ragazza molto normale, molto semplice, ripeto, che vive tranquillamente in società senza essere né emarginata né un'eremita, quindi fa riflettere su tante cose che abbiamo attorno tutti i giorni, e fa riflettere insomma fa pensare su quanto davvero ci servano tutte queste cose per cui ci doniamo l'anima, lavoriamo 10 ore al giorno per avere, e poi non so veramente quanto migliorino la nostra vita e quanto ci rendano felici, che poi è la domanda che sta alla base di tutto, di tutta la mia volontà di raccontare storie, di fare cinema. Cioè la felicità penso che sia alla fine la cosa più importante, quella a cui ruota attorno la vita, quindi la storia va un po' letta in quel senso lì, ecco, questa è l'unica cosa che mi sento di aggiungere. Bene, Nicola, il resto da vedere, è disponibile gratis, quindi chiunque voglia vederlo basta andare su Vimeo, schiacciare Piccole Scelte, Nicola Rosa, cliccare e si vede, non c'è nessun contratto con nessuno, quindi questo è il bello delle produzioni, cioè dell'autoproduzione, completamente fruibile. Nicola, io ti ringrazio, è stato un piacere, e ci sentiamo prossimamente. Grazie a te, speriamo che ci sia occasione con altri progetti di parlarne. Benissimo, grazie presto. Per l'invito, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao Nicola. Grazie, ciao. Nicola Roda, co-regista del documentario Piccole Scelte, con lui chiudiamo questo appuntamento settimanale con Visionari, come ogni giovedì dalle 14 alle 15. Ci diamo appuntamento a giovedì prossimo per l'ultima puntata prima della pausa estiva. Tutte le informazioni sulla trasmissione le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, alla voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari, mentre l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.